Ciao a tutti, e siamo su Radio Big World, su cui ti sei sintonizzato, e continuiamo i nostri incontri cadenzati. Il titolo di questa serie di incontri è Mescolare acqua e vino, che sta a significare che buonissima l'acqua, buonissimo il vino, un bicchiere di vino annacquato, quando è fatto nelle proporzioni giuste, è ancora più buono. Quindi mescolare, secondo me, rende migliori le situazioni che separate potrebbero essere ugualmente interessanti. Oggi l'argomento che io utilizzo per la mia riflessione, e che è un invito a confrontarsi, un invito a tu che ascolti a confrontarsi su questo argomento, è l'energia. L'energia cos'è? Io non lo so spiegare. A cosa serve? Tutti i giorni si vede l'utilizzo dell'energia. Io però so, anche se non lo so spiegare, che porsi l'interrogativo sull'energia è salire un passo più in alto nella scala del sapere, anche se in realtà non si riesce a dare una risposta. L'energia è nell'universo, dell'universo, è l'universo. L'energia è qualcosa che non può essere creata, che non può essere distrutta, ma che può essere solo trasformata. Se noi si pensa un attimo al cosmo, no? Si vede come sono cambiati i nostri pensieri su questa entità in cui siamo immersi. Prima la Terra era il centro dell'universo. Tutti i pianeti giravano alla Terra, intorno alla Terra, il Sole stesso girava intorno alla Terra. La Terra, centro dell'universo. Perché nella Terra c'è l'uomo che, secondo un modo di pensare, deve essere il centro dell'universo. Poi questa concezione è stata superata, Galileo, eccetera, eccetera. E gli scienziati, quelle persone che riflettevano, si sono accorti che il centro dell'universo era il Sole, perché la Terra girava intorno al Sole, i pianeti tutti giravano intorno al Sole, la Luna girando intorno alla Terra girava anche intorno al Sole, e si è formata una seconda concezione nuova. Non è più la Terra, ma è il Sole il centro dell'universo. Poi, con le ulteriori tecnologie e anche l'interesse di ricercatori, si è capito che anche il Sole non era il centro dell'universo, perché siamo inseriti in una struttura di tanti soli, di tante stelle, di tanti pianeti, di tanti satelliti, che si chiama galassia. Quindi noi siamo inseriti in una galassia, in un grande sistema che fa parte dell'universo. Ma neppure la galassia è il centro dell'universo, perché ci siamo accorti, si sono accorti gli studiosi, noi bisogna fare atto di fede davanti alle motivazioni scientifiche, si sono accorti gli studiosi che l'universo è enorme, è pieno di miliardi e miliardi di galassie. Quindi qui la nostra mente, la nostra capacità immaginativa si ferma e dobbiamo soltanto chinare la testa. Tutto questo universo è permeato dall'energia. Cos'è l'energia? L'energia è quella cosa che influenza la galassia, che è a miliardi di anni luce da noi, e che influenza la nostra Terra e le nostre attività tutti i giorni della nostra vita. Per capire un pochino di più cosa può essere l'energia, prendiamo un esempio facile per noi del XXI secolo, l'energia elettrica. L'energia elettrica è qualcosa che oggi fa tantissime cose che migliorano la qualità della nostra vita. Come nasce l'energia elettrica? Diciamo che c'è un generatore che in realtà è un trasformatore, cioè uno strumento per trasformare l'energia dell'universo in energia elettrica, che come tutti sappiamo è fatto da un generatore a vapore nelle centrali atomiche, da un generatore azionato dall'acqua negli sbarramenti delle dighe sui fiumi, da un generatore azionato dalla luce e le cellule fotovoltaiche e altre, un generatore azionato dal vento, no? Le nostre colonne di 40 metri che vediamo sui crinali e che pur contestate ci permettono di vivere una vita senza cepare troppo il pianeta. Quindi c'è un generatore che aziona un sistema che si chiama dinamo. Dinamo vuol dire qualche cosa che una macchina che è messa in moto, cioè fatta girare, produce ai suoi capi l'energia che noi utilizziamo tutti i giorni. Quando noi accendiamo la lampadina dell'abat-jour che sta sopra il comodino, vediamo che ci sono due fili. In realtà il filo è unico perché li tiene tutti e due assieme, ma tutti abbiamo visto, smontando una presa, un portalampade, eccetera, che dentro ci sono due fili. Perché? Perché l'energia, in questo caso quella elettrica, che è energia però, non può essere mai statica. Allora, se dalla dinamo uscisse un solo filo, non ci sarebbe qualcosa, gli elettroni, ognuno ha le sue idee e le sue visualizzazioni, non ci sarebbe qualcosa che può uscire per andare dove? Da nessuna parte, perché se c'è un filo solo, dove finisce il filo, si ferma tutto. Allora, dalla dinamo escono due fili, uno è il positivo chiamato e uno è il negativo chiamato così. Allora, per convenzione, dal filo positivo escono questo flusso di elettroni che, muovendosi, attraversa la nostra lampadina e ritorna nella dinamo. Cioè c'è un circuito dove l'elettricità si muove e in questo caso l'elettricità trasforma l'energia cosmica, che è quella venuta alla cellula fotovoltaica dal sole, per esempio, che è alimentato, trasforma quell'energia lì in luce e la nostra energia cosmica con le nostre tecnologie è diventata luce. Ma noi possiamo anche inserire nella presa della corrente la spina di un ferro da stiro. In questo caso cosa succede? Che il nostro utilizzatore non produrrà luce, ma produrrà calore. Allora, quell'energia che è partita dal sole, dall'universo, eccetera, eccetera, eccetera, attraverso tante trasformazioni, è diventata calore. Quell'energia può anche, alimentando un motore elettrico, diventare energia cinetica, cioè movimento. Basta avere un po' di fantasia, si può continuare, però ognuno, credo è opportuno, si utilizza la sua. Insomma, si capisce chiaro che l'energia dell'universo si trasforma attraverso meccanismi naturali o meccanismi creati dagli esseri umani in tanti tipi di energie che qualificano, fanno diventare più gradevole la nostra vita di tutti i giorni. Un attimo e passiamo a un altro tipo di energia, che è l'energia cinetica. Energia cinetica vuol dire l'energia che viene o che genera il movimento. Pensate a una cosa che può far sorridere. Siete per la via principale della vostra città, c'è un cantiere perché stanno rifacendo, ristrutturando un edificio e voi passate vicino al cantiere, vi piace una tegola, la forma che ha questa tegola, la prendete e ve la appoggiate sopra la testa. Cosa succede? Niente. Forse qualcuno riderà di voi, però il vostro corpo non subirà nessun danno. Eppure avete una tegola in testa. Se invece, continuando a passeggiare, lasciate la vostra tegola al cantiere per non essere ladri, continuando a passeggiare, arriva una tegola che viene dal tetto da un'altezza di 15 metri e si pone sulla vostra testa, cosa succede? Succede che, se vi va bene, cadete in terra svenuti e sanguinanti. Se vi va male, ci lasciate la pelle. Eppure erano due tegole fatte di cotto uguali. Ma la differenza tra la prima e la seconda è che la prima era statica, la seconda era carica di energia cinetica, cioè quella energia che ha acquisito scivolando dal tetto fino alla sopra alla vostra testa è l'energia cinetica che, colpendo, invadendo in modo istantaneo, repentino, il vostro corpo, ha distrutto una parte di voi. Allora, l'energia cinetica, il più delle volte, è un'ottima energia, perché è quella che ci permette di spostarsi con l'automobile, di andare in bicicletta, è quella anche che ci permette di andare a fare una passeggiata a piedi. Però tutte le volte che l'energia arriva sul nostro corpo in maniera fortemente invasiva, il nostro corpo ne subisce un danno. Quando avviene un incidente con la macchina, perché il corpo si danneggia? Dice perché si rompe le ossa, si rompe la milza, si danneggia il cervello. Ma perché è successo che un'energia che noi avevamo addosso, quella cinetica, si è scontrata all'improvviso con un corpo, diciamo, statico oppure ugualmente in moto, se era una macchina e veniva contro di noi, e c'è stato una sommatoria istantanea e veloce di questa energia cinetica che, nel caso, ha distrutto il nostro corpo. Ma l'energia cinetica ci fa pensare anche a un altro aspetto della tecnologia. Quante volte vi è successo di guidare la vostra auto, di essere in prossimità del semaforo, vedere che c'è la coda, vedere che è rosso e così per istintivamente mettere il cambio in folle? E la macchina continua ad andare avanti. Se quando arrivate vicino alla coda non frenate, la macchina, che ha il motore distaccato dalla trazione, urta quella che è davanti a noi e succede l'incidente. Cioè, non è il motore della nostra macchina che ci fa camminare, ma è l'energia cinetica che noi forniamo alla nostra auto e a noi che ci siamo sopra che ci permette di camminare. Anche qui, se si va a pensare come è nata questa energia, no? Oggi tutte le automobili, o la stragrande maggioranza, non hanno motori elettrici ma motore a combustione interna. Che vuol dire combustione interna? Vuol dire che c'è un cilindro, in questo cilindro ci si mette una sostanza che, una volta incendiata, aumenta la pressione dentro al cilindro e spinge il pistone che è dentro il cilindro verso il basso. Cioè, una combustione interna a un cilindro crea un'energia che spinge il pistone verso il basso, il pistone poi sull'albero, sul collo d'oca, eccetera. Insomma, gira il motore. Ma se ci pensiamo bene, quell'energia cinetica che il motore riceve dallo scoppio della miscela nel cilindro e che dà alla macchina viene da una situazione esterna, viene da un petrolio, per esempio, che si è creato con l'andare del tempo perché l'energia dell'universo ha condizionato quelle piante, quegli animali, quella chimica che è sottoterra e l'ha trasformata in qualcosa che oggi chiamiamo petrolio. Quindi la nostra macchina che cammina non cammina perché è avvenuto una combustione interna, cammina perché utilizza l'energia dell'universo. A questo punto mi fermo perché penso di essere stato un pochino pesante, ma se vi serve continuate questo pensiero che vi permetterà di scoprire tante cose che sono intorno a noi e che oggi si vedono con un occhio appannato e invece riflettendo si vedono con una vista più trasparente. Vi saluto da Radio Big World, alla prossima se volete, e se volete anche confrontiamoci. Ciao.